Oggi per strada ho incontrato un fiore e l'ho chiamato con il tuo nome. Oggi di te ho parlato anche ai muri, ma hanno risposto che ero già fuori. E non è un caso che oggi è piovuto, e non è un caso che tu mi hai lasciato. Oggi per strada ho incontrato poi un prete, portava al dito una strana fede. Quando mi ha chiesto di dargli la mano, sono caduto ma non ero ubriaco. E non è un caso che oggi è domani, e non è un caso che tu non mi ami. Ho incontrato l'ombra del tuo sorriso di rondine bianca. Quando il sole l'ha fatta sparire, non c'è rimasto più niente da dire. E non è un caso che oggi è passato, e non è un caso che tu mi hai fregato.